Venendo alla prossima serata di questo sabato 6 dicembre al Teatro Odeon, ecco, chi verrà ascoltarvi? Ascolterà un repertorio che comprenderà anche le pietre miliari del vostro passato, oppure si concentrerà su questa trilogia che già di per sé vale una carriera? Grazie per questa domanda, è importante, perché chi verrà ad ascoltare il banco il 6 dicembre al Teatro Odeon sentirà anzitutto il repertorio storico, con qualche brano dell'ultimo album, perché non poteva essere il contrario. Cioè, manchiamo da Bologna da troppo tempo e la gente vuole sentire il banco, il suo mondo, per cui ci sarà l'evoluzione da Darwin, ci sarà 100 mani, 100 occhi, ci sarà Rip, Metamorfosi, Il Ragno, tutto il repertorio storico, Non mi rompete, e poi alcuni brani dell'ultimo album. L'ultimo album è appena nato, ha tempo per farsi amare, conoscere ed ascoltare. Ora, quello che voglio, che desidero vivamente, è dire a chi è interessato alla notizia che il banco è ancora vivo e vegeto, appassionato, intenzionato a dare 2 ore e mezza almeno, minimo, di concerto con il sangue sulle corde della chitarra e sui tasti delle tastiere e sulle bacchette della batteria. Io, ascoltando questa trilogia, ho avuto proprio lo stesso pensiero, che il banco del mutuo soccorso non è un pezzo di storia, ma è veramente un organismo vivo che continua a crescere, a trasformarsi, a interrogare il presente, a interrogare gli eterni problemi di un uomo. E quindi non è assolutamente la cover band di se stessi, appunto. Sì, sarebbe stato grottesco, guarda, fammelo dire. Ecco, non avrei mai accettato una cosa. Tu all'inizio di questa bellissima chiacchierata hai detto: volevo mantenere l'identità, ma contemporaneamente non copiarmi. Credo che tu sia assolutamente riuscito, perché si sente che il banco, ma è un banco che è nato adesso, non è il banco, guarda, che ripete tanto, se stesso. Tanto piacere quello che mi stai dicendo, perché era una scommessa difficile da vincere, in quanto mantenere identità significa fare verso a te stesso, e essere invece nuovo e diverso mantenendo l'identità sembrava una cosa impossibile, invece no, e ho capito perché ci siamo riusciti, perché del banco storico, della storia del banco, dello stile del banco abbiamo mantenuto la coerenza dell'integrità concettuale, cioè un progetto, qualunque lavoro lo devi prima studiare e progettare e poi realizzarlo, e se lo progetti con attenzione, con amore, con competenza, poi ti viene benissimo.